lo fanno correre da Ponzio a Pilato. Il cavaliere Ignazio Serre, tutto zucchero e miele, naturalmente favoso, che uno lo capisce da come mette le mani, da come si ingiarma a guardarsi la punta delle scarpe. Sul serio, don Nenè, sono mortificato, mo i magazzini vacanti. Al suo posto, provare per provare, farei un salto da Michele Navarria. E don Michele Navarria, ingazzato com'era, sempre per niente, magari perché il sole spuntava il mattino e calava la notte. No! Manco un grammo che un grammo di solfaro, o i magazzini sciutti all'osso, don Nenè. Se l'era oramai perso per strada l'applombo, che sudando sangue si era guadagnata in Svizzera, Nenè Barbabianca, quando suo padre aveva avuto la bella pensata di mandarlo a studiare chimica per fargli fare col solfaro lo stesso preciso miracolo di Gesù col pane e coi pesci. Tu qui a Vegata hai studiato, gli aveva detto, e ora dovresti andartela a Palermo, all'università. Solo che invece di partire per Palermo, fra una decina di giorni tu t'afferri il primo treno per Roma e da lì te ne vai a Zurigo, che dicono che come insegnano là la chimica. E ora se lo potevano pigliare nella coffa, lui, suo fratello Gaetano e suo padre. Consumati erano, morti e seppelliti. Continuava a sbattere da un magazzino all'altro, una palla da biliardo che per forza di inerzia rimbalza da sponda a sponda. Tanto la risposta dei magazzinieri la sa già e sa magari il commento pensato che non viene detto, ma che però si indovina lo stesso da uno sparluccichio degli occhi, da una piega che spunta vicino al labbro. E vai a farti fottere tu e tutta la tua razza.